non di semplicemente rispettare la sua cecità lasciandola a se stessa, ma cercando di operare in dialogo. E pian piano quello spazio gentilmente, delicatamente, con questa connessione Atlante-Sacro, facendo in modo che ogni passo sia guidato dai nostri mignoli dei piedi, che si connettono al Sacro o all'Atlante. I mignoli delle mani lavorano con le braccia, si equilibrino il disegno del corpo, lo rendono poetico, aperto, espanso. Quindi liberare anche tutte le tensioni mosse dalle braccia, sempre. Atlante, Sacro, Migno. Piano piano. Thank you.